Friuli nel mondo. Nozze friulane ad Aviano. 29esima trasmissione dedicata agli emigrati. Aviano, per il suo stesso nome, era predestinato ad ospitare un campo di aviazione, divenuto famoso sin dalla Prima Guerra Mondiale. Ma il paese, che si stende sotto le Prealpi all'altezza di Pordenone, deve la sua notorietà anche alla gran quantità di emigranti che conta in tutto il mondo. Un vistoso cartello al crocicchio della strada a Monte di Elisabethville, nel Congo belga, inalbera la parola Aviano. Commovente saluto ai sopraggiunti che arrivano in quella remota regione. È l'indicazione di un villaggio così battezzato dal suo fondatore, Luigi Paranuzzi, dove avianesi ed indigeni vivono in perfetto accordo e in perfetto accordo lavorano, nelle coupes de bois de Lupoteau, nei tagli di bosco di una località ricca di piante d'ogni specie e di miniere. Le villotte, registrate dal microfono della radiotelevisione italiana ad Aviano, la vigilia della partenza di Aldo Cecchella per il Congo belga a sostituire il padre operoso Elisabethville e di un altro dei quattro cantori in partenza per il Mezzogiorno d'Italia, sono dedicate ai lontani. Aviano del Friuli ad Aviano dell'Equatore. Canta il gallo, una dice, l'alba è imminente, intraducibile al cricheldì. Addio, carina, devo partire. È il tema sempre attuale del Friuli migrante, distacco di cuori innamorati. Vi appartiene, avianesi lontani, e appartiene a tutti i nostalgici sotto tutti i cieli del mondo. Segue una villotta allegra, preludio alle nozze registrate ad Aviano. Lui mandi morose, io gli ho detto. Se non che voi meritate una più intensa pagina di folklore. Le nozze nei costumi del vostro paese, antichi di un secolo, autentici, quindi tessuti a mano con cascami di seta e con lana, da ciò il loro nome di bigatera. Sul capo delle donne una palma di rose di carta e di palline colorate, i tremui. Ai loro fianchi tanti nastri quanti sono i pretendenti alla loro fiorente giovinezza. Anche sui neri cappelli di feltro degli uomini, fiori a profusione.